9 in punto. Buongiorno cari ascoltatori da Simone Spezia e benvenuti a 9 in punto. Vi abbiamo detto che parleremo oggi di questo che è un vero e proprio piano per la prossima legislatura presentato da Confindustria. Ci scrivete via SMS: ma perché non parlate di MPS del Monte dei Paschi? Non vi preoccupate, è esattamente il tema che tratteremo domani in coincidenza con l'inizio dell'assemblea del Monte dei Paschi di Siena, che si annuncia assai scoppiettante, perché a quanto pare interverrà anche Beppe Grillo. Non vi preoccupate, su questo tema naturalmente andremo. Parliamo oggi invece appunto di questo piano per la legislatura di Confindustria. Ci sono molti elementi: il pagamento, già qualcosa vi si diceva prima, pagamento immediato di 48 miliardi di debiti dello Stato verso le imprese, 1 miliardo per detassare il salario di produttività, lavorare 40 ore in più all'anno ma detassate e decontribuite, è quello che insomma sta un po', soprattutto quest'ultima parte, è quello che sta un po' facendo i titoli dei giornali in queste ore. Saluto innanzitutto Raffaele Bonanni, segretario generale della CISL, buongiorno. Buongiorno. Che so che tra poco ci deve abbandonare e quindi lo coinvolgo immediatamente, anche perché mi sembra che non sia ancora in linea Aurelio Regina, che è vicepresidente con delega tra l'altro per lo sviluppo economico di Confindustria. Allora Bonanni, un primo giudizio sulle proposte che ha visto e che ha letto da parte di Confindustria. Ma le preoccupazioni sono le stesse. Siamo molto preoccupati perché si continua a non crescere, si continua a abbandonare a se stesso ogni fattore dello sviluppo nel paese, perché i governi locali e nazionali non se ne occupano da 20 anni, e intanto il debito si schiaccia e ancora di più le tasse, che hanno ancora di più rarefatto la efficacia e la vivacità della nostra economia. Con le tasse così alte sul lavoro le famiglie non spendono, e un paese manufatturiero come il nostro non riesce a collocare i prodotti propri nel mercato nazionale, e questo naturalmente blocca le imprese, crea disoccupazione. È inutile che taluni ripetano che la disoccupazione cresce perché perché non ha possibilità di muoversi, di giocare sulla dinamica virtuosa appunto della economia. Ecco perché io condivido molto quello che dice Squinzi: agire sulle tasse di lavoratori e pensionati, delle famiglie, in modo tale che possano spendere, agire sulle tasse di impresa in modo tale che si invogliano gli investitori italiani e esteri a investire. Senza questa prospettiva noi non usciremo da questa storia, e credo che su questo dobbiamo ingaggiare una battaglia forte. Sono anni che le parti sociali, sindacati e imprese insieme hanno questa opinione, e questa volta non possiamo fallire, perché se falliamo fallisce la nostra economia. Poi lui ha fatto proposte anche su varie tecniche, come decontribuire e detassare gli straordinari. Io condivido linea di principio, perché avere una boccata d'ossigeno forte oggi per i salariati, per gli stipendiati, in modo tale da non pagare tasse per esempio sul lavoro straordinario che uno fa, parliamoci chiaro, perché o ha una figlia da sposare, o un figlio da sposare, o ha un mutuo da pagare, o ha acquistato una casa, o vuole aggiustare una casa, di progetti di persone che appunto a quel punto fanno lo straordinario con aziende che ne hanno bisogno, ma hanno bisogno di guadagnare il più possibile. Questo può essere una boccata d'ossigeno. Peraltro va ricordato che in questi giorni abbiamo ottenuto finalmente, dopo tante disquisizioni, il risultato sulla detassazione anche sul salario di produttività. Siamo abbastanza soddisfatti, perché il tetto è andato a 40.000 euro. Sì, abbiamo dovuto schiacciare di più per la penuria di risorse, per esempio la parte del salario che sarà detassato, però detassare ben 3 volte dal 30 e oltre al 10% di salario di produttività è una grande opportunità. Quindi io condivido la filosofia, cioè giocare molto sulle tasse, giocare molto sugli altri fattori dello sviluppo. È un lavoro forte che dobbiamo fare insieme. E ritiene, io intanto saluto Aurelio Regina, appunto vicepresidente di Confindustria, che ci ha raggiunto. Buongiorno Regina. Buongiorno a tutti voi. E saluto Alessandro Barbera, collega della Stampa, che sarà anche lui con noi per tutta la trasmissione. Buongiorno Alessandro. Buongiorno a tutti. Però insomma adesso chiudo con Bonanni e vi lascio ancora in attesa un attimo, perché appunto tra poco deve scappare. Quindi lei dice in sostanza che da questo punto di vista e anche sulla base delle proposte di Confindustria una sorta di avviso comune, una sorta di battaglia comune si può fare. Quindi la convince questo piano di legislatura di Confindustria? Ma l'altra settimana io stesso ho chiesto a Squinzi di fare una proposta tutti insieme, cioè oramai gli interessi dei lavoratori e delle loro aziende sono gli stessi, dobbiamo difendere la produzione, dobbiamo insieme difendere le produzioni, senza che avvenga questo non avremo prospettive. L'unico contrasto che possiamo avere con loro è sulla divisione. E a questo ci penseranno i contatti sulla divisione appunto della ricchezza, ma oggi bisogna mantenere in piedi la ricchezza, bisogna costruire insieme la ricchezza, perché molta ricchezza su cui ha poggiato il nostro benessere negli ultimi decenni, molte certezze si stanno sfarinando, sia per fattori esterni a un mercato internazionale molto ristrutturato con vecchi competitori più agguerriti di prima e con nuovissimi competitori agguerritissimi, e sia per fattori interni, perché la realtà interna è sconquassata, tutto ciò che serve per produrre costa molto di più, tutto ciò che serve per produrre congiura contro una buona, efficiente e di qualità della produzione, quindi è chiaro che dobbiamo essere alleati e dobbiamo lavorare insieme. Peraltro è l'unico modo per farci ascoltare, l'unico modo per aprire una discussione davvero, davvero importante. Un'ultima domanda che le faccio, Bonanni, prima di lasciarla, appunto perché so che deve scappare. Ci chiedono degli ascoltatori, sia via Twitter, ve lo ricordo, l'hashtag è 9 in punto, il numero per intervenire in diretta 800 24 00 24, sia via SMS, dicono insomma, ma i sindacati di solito dicono è meglio fare meno straordinari e assumere più gente, insomma le muovono questa osservazione, dicono insomma, più straordinari vuol dire meno occupati. Ma questo non sempre, anzi oramai è raro la condizione che lei sta sottolineando. Perché? Perché molte volte gli straordinari servono per assecondare commesse che si mostrano o scompaiono con moltissima rapidità. È chiaro che se io come azienda riesco a contrarre un accordo con un committente nel realizzare quelle opere, per realizzare quei prodotti in tot tempo, è chiaro che a quel punto la velocità che mi serve non solo mi permette di fare gli straordinari, ma anche di stabilizzare tutto ciò che ordinariamente a quel punto salterebbe, perché il committente non sarebbe interessato appunto a affidare la commessa a quell'azienda che gli ritarda nei tempi o comunque non riesce a secondarlo nel tempo richiesto. Quindi vedere lo straordinario dentro un contesto di produzione stabile, ripetitivo, assolutamente privo di oscillazioni, ma questo è un errore che probabilmente sicuramente si faceva anche quando c'erano produzioni in epoca molto diverse, in un mercato molto diverso, molto più statico, molto più incapace appunto di assecondare i movimenti dei mercati stessi. Cioè è finito da molto tempo il periodo dove le aziende chiudevano d'estate e non producevano niente per i mesi di agosto, di realtà, appunto, che programmavano le commesse nei 6 mesi, negli 8 mesi, negli 10 mesi, e fino al tempo che un'auto, appunto, si commissionava e si consegnava 6 mesi dopo, in una situazione di mercato come questo. Grazie a Raffaele Bonanni per essere stato con noi. Appunto, come dicevamo, aveva poco tempo, e buona giornata. Grazie, buongiorno. Allora, riveniamo anche a tutto il resto. Insomma, adesso abbiamo parlato di lavoro essenzialmente, incassato quello che possiamo definire l'endorsement di un pezzo del sindacato sull'ipotesi di detassare e decontribuire tutto 40, aumentare le ore di lavoro, insomma 40 ore di lavoro all'anno in più, detassate e decontribuite per far entrare più soldi in busta paga a chi questi straordinari li fa. Veniamo agli altri punti. Aurelio Regina, di nuovo buongiorno, vicepresidente di Confindustria. Buongiorno a tutti i radioascoltatori. Allora, ci sono in realtà molti elementi, come si diceva, questa è una sorta di programma economico di legislatura che Confindustria ha presentato ieri. Il presidente Squinzi dice: terapia d'urto, si può crescere. Questo, tra l'altro, è il titolo del Sole 24 Ore oggi in edicola. Ci può riassumere, naturalmente, con la massima compattezza possibile, quali sono gli altri elementi su cui puntate? Guardi, innanzitutto bisogna partire però dalla situazione, velocemente, qualche dato solo per lasciar capire la situazione di disagio economico e sociale che il Paese sta vivendo. Nel 2013 il reddito per abitante è tornato ai livelli del 1997, abbiamo perduto 16 anni di benessere, la distanza con il resto dell'area euro è calata di 14 punti percentuali dal 1995. La crisi lascerà dal 2007 in poi, si sono persi 1,5 milioni di posti di lavoro e il tasso di disoccupazione è quasi raddoppiato dal 2007. E la produzione industriale è caduta di un quarto e ci sono punte superiori al 40% in alcuni settori. Quindi è elevatissimo il rischio che se si continua, per forza di inerzia, noi distruggiamo la base industriale del nostro paese. Queste considerazioni di fondo, come dire, ci hanno portato a uscire dal dibattito generico sulla crescita ed indicare una serie di misure che sono un progetto organico di politica economica ed industriale fondato essenzialmente in una duplice azione, una terapia d'urto, come l'ha definita il presidente Squinzi e come anche lei ricordava, immediata, da svolgere subito e in fase massiccia, accompagnata da un progetto di riforme strutturali che hanno un impatto più nel medio termine. Sulla terapia d'urto, innanzitutto, concentrarsi sul taglio dei costi, i costi che oggi bloccano la competitività, aumentandone così la produttività del sistema. Innanzitutto il cuneo fiscale, eliminando progressivamente il costo del lavoro dalla base imponibile IRAP, tagliare gli oneri sociali che oggi gravano sulle imprese almeno dell'11%, stabilizzare 1 miliardo l'anno, quello che prima Bonanni ricordava sulla detassazione del salario di produttività, lavorare 1 ora in più alla settimana, pagata il doppio al lavoratore perché decontribuita e detassata. Questi sono i primi costi da abbattere con leva fiscale e si possono fare con coperture immediate. Sul costo dell'energia, ridurre del 30% gli oneri che oggi gravano sulla bolletta parafiscali, armonizzando in base alle normative europee il carico essenzialmente dovuto per le fonti rinnovabili, dare liquidità all'economia, far emergere almeno 48 miliardi di debiti non pagati da parte della pubblica amministrazione, che sono un debito occulto e che quindi vanno fatti emergere, vanno liquidati, caricati a debito pubblico, poi sul debito pubblico vanno prese delle azioni di riduzione almeno, abbiamo indicato, in 5 anni inferiore al 110% rapporto PIL debito, rilanciare gli investimenti, in particolare con un credito d'imposta sul futuro, un'imposta strutturale del 10% sugli investimenti in ricerca e innovazione, aumentare a 100 milioni per 3 anni i benefici fiscali a favore delle imprese che sottoscrivono contratti di rete e realizzare il piano casa nella sua interezza, rendendo strutturali gli interventi nell'edilizia per il risparmio energetico. Naturalmente attenzione all'export, con finalmente un'operatività dell'Istituto del Commercio Estero, mantenendo però la coesione sociale, significa che tutto questo piano deve in qualche modo tenere legato il Paese, e questo rimodulando le accise, le imposte IVA sui beni inferiori e che permetterebbe di ridurre gradualmente l'IRPEF soprattutto sui redditi più bassi, aumentando i trasferimenti agli incapienti. Quindi un piano organico molto forte che si può fare subito, che ha la sua copertura, perché noi abbiamo indicato essenzialmente un progetto a saldo zero, che ha risorse e impieghi. Lo abbiamo fatto con un metodo innovativo econometrico per Confindustria, la prima volta che Confindustria si misura con gli impatti anche sull'occupazione, sul rapporto PIL-debito. In genere tutte queste manovre si fanno giusto per indicare, questi studi per indicare qual è l'apporto sul PIL. Noi invece ci siamo, come detti, focalizzati anche su quelli che sono poi gli impatti immediati. Poi, se vuole, durante la trasmissione, ci focalizziamo anche su gli impatti benefici. Tutta questa manovra, questo progetto organico, che guardi, va preso nel suo complesso, non ci sono singoli pezzi. Può manovrare su un'intera legislatura 306 miliardi, ecco perché l'abbiamo definito una terapia shock possibile, perché al di là dei dibattiti sulla crescita, che oggi sono molto sterili, nell'indicare solo che bisogna crescere, noi abbiamo indicato anche come e come si può crescere. Chiarissimo, Regina, insomma, almeno abbiamo dato per sommi capi quella che è l'idea di questo piano. Verrei, prima ancora poi di passare la parola ad Alessandro Barbera, un collega della Stampa appunto, che ci aiuterà anche a fare domande, a fare il punto su queste questioni, vorrei iniziare già a sentire qualche ascoltatore che ci ha chiamato all'800 24 0024. Iniziamo da Diego, che ci chiama da Salerno. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Volevo fare due osservazioni, una relativamente alla proposta di detassare gli straordinari. Non capisco come questa proposta possa avere un rilievo reale nel quadro in cui oggi la produzione industriale è in diminuzione e quindi gli straordinari interessano sempre un numero decrescente di lavoratori. Non sarebbe più sensato agire sulla prima aliquota IRPEF per ridare ai salariati, agli stipendiati un po' più di potere d'acquisto effettivo. Seconda osservazione, per quanto riguarda i fondi destinati agli investimenti in ricerca per le aziende, la mia esperienza come ricercatore universitario è che in molti casi le aziende utilizzano questi fondi per pagare il personale ordinario, quindi su questo sarebbe necessario anche intensificare i controlli per realizzare un'effettiva spesa di questi fondi per attività di ricerca e sviluppo. Sentiamo anche Maurizio, che ci chiama da Verona, poi avremo una breve pausa e poi le risposte. Maurizio, buongiorno. Sì, buongiorno. Allora, innanzitutto sono d'accordo sul detassare gli straordinari, non crea occupazione, perciò non crea indotto, non crea spesa, perché torniamo sempre a avere tanti disoccupati. Bisognerebbe ragionare moltissimo sulla ristrutturazione dell'ammortizzatore sociale. Se si riuscisse a rigirare alle aziende che lo Stato paga mezzo cassa integrazione e mobilità in risparmi di contribuzione, si creerebbe un'enorme forza lavoro. Anziché avere persone a casa che percepiscono l'80% dello stipendio, si annoiano, prendono soldi, lavorano in nero, falli lavorare in aziende che ne hanno bisogno, in modo tale che si abbassa il costo del lavoro e si abbassa il costo del prodotto. Molto semplice, semplicissimo. Se in cassa integrazione, perfetto, dovresti avere 700 euro al mese, perfetto. Quei 700 li giriamo alle aziende che ti pagheranno lo stipendio detraendo i 700 euro, molto semplicemente si abbassa il costo del prodotto. Se abbassa il costo del prodotto andiamo a combattere anche l'importazione, la Cina e quant'altro. 9 in punto. Ed eccoci di nuovo a parlare di questo piano di Confindustria per la legislatura. Abbiamo in sospeso appunto due domande di ascoltatori. La parte sugli straordinari, insomma sulle 40 ore di lavoro aggiuntive, direi che si può condensare in una. E poi c'è la domanda che riguardava invece la detassazione degli investimenti in ricerca, gli sgravi fiscali per gli investimenti in ricerca, che ci diceva un ascoltatore, Diego, insomma, io faccio il ricercatore, dice spesso dalle aziende vengono utilizzati per altri scopi, per personale ordinario, ci vogliono anche meccanismi di controllo. Regina. Guardi, innanzitutto io provo a utilizzare un eufemismo, perché si può parlare di tutte le misure naturalmente prese singolarmente, però bisogna avere chiaro quello che sta succedendo, diciamo, nel nostro modello economico. C'era un bellissimo film di fantascienza, come dire, che ha avuto un grande successo, che parlava del nucleo della Terra che si era fermato. E fermandosi il nucleo, impedendo alla Terra di, come dire, di continuare a muoversi su se stessa, stava perdendo, diciamo, tutti gli attriti di gravità e progressivamente, diciamo, stavano succedendo molti incidenti sulla Terra. Questo è quello che sta succedendo nella nostra economia. Il nucleo si è fermato. Per riattivarlo non occorre una singola misura, ma occorrono, come fece quel film, dove una navetta arriva al centro della Terra e innesca una serie di bombe nucleari a sequenza. Noi abbiamo bisogno di tanti shock nella nostra economia per riattivare il nucleo. L'idea di detassare, di decontribuire un'ora in più di lavoro alla settimana non è una ricetta, diciamo, innovativa, lo è probabilmente per l'Italia, ma è stata adottata già in altri paesi europei. Nel nostro modello noi abbiamo stimato che darà più lavoro, perché paradossalmente, perché noi abbiamo stimato che interamente una settimana di lavoro in più, sarebbe un'ora in più alla settimana per l'intero anno, dà circa oltre 2 miliardi, diciamo, di reddito maggiore disponibile, che attiva consumi e quindi attiva produzioni e, come dire, e fa crescere l'economia, che non va disgiunta dal fatto di ridurre anche la prima aliquota IRPEF, perché non è in contrapposizione, tant'è vero che nel nostro progetto prevediamo anche di ridurre gradualmente, diciamo, le aliquote più basse proprio per ridare fiato contemporaneamente. Naturalmente non tutte le aziende oggi possono disporre o possono usufruire di questa norma, perché non tutte si trovano nella situazione di aver bisogno di straordinario, di aver bisogno di ore in più di lavoro, però ci sono aziende che ne hanno la possibilità, in particolare quelle che esportano, quelle che lavorano su lunghe commesse, che quindi hanno dei periodi dell'anno da dover utilizzare più personale. Per noi questo tipo di aziende, soprattutto quelle vocate alle esportazioni, noi dobbiamo sostenerle ed aiutarle e aiutarle a aumentare la produttività, e anche questa è una piccola bomba, non fondamentale per tutto, ma necessaria al progetto intero. Sui fondi di ricerca, guardi, io credo che Confindustria oggi abbia preso un atteggiamento molto coraggioso e abbia detto: non servono più interventi a pioggia, rinunciamo anche agli incentivi alle imprese, ma diamo un credito d'imposta strutturale del 10% a coloro che fanno vera innovazione. Poi definiamo che cos'è la vera innovazione. Possiamo anche mettere dei paletti precisi in modo, come dire, che sia più facile anche controllare che questo avvenga, ma facciamolo in maniera automatica per coloro che investono davvero. Il futuro del nostro paese è per quelle aziende che sanno misurarsi sul contesto internazionale, ed è questo a cui Confindustria vuole guardare, perché la qualità, la visione, il progetto anche delle nostre imprese saranno fondamentali per uscire tutti insieme, diciamo, da un meccanismo perverso che è questa crisi. Alessandro Barbera, collega della Stampa, che abbiamo lasciato in caldo per un po' fino adesso. Domande per Regina? Ma il piano è interessante, soprattutto perché si capisce che sotto il profilo della la ricostruzione delle curve della tassazione c'è stato un lavoro molto intenso. Sembra convincente lo spostamento di parte della tassazione sulle persone e sul lavoro, rispetto aumentando in maniera compensandola con l'aumento delle imposte indirette, però c'è una parte di questo piano che a me sinceramente non convince, provo a spiegarlo. Mi sembra che il piano sostanzialmente sia timido su due aspetti. Il primo è la questione della riduzione del peso dello Stato. Ci stiamo dimenticando che, perché evidentemente si è smesso di parlarne, che uno dei problemi più importanti e una delle zavorre di questo paese è il peso dello Stato. Voi parlate del costo enorme dell'energia. Beh, io credo che se il costo dell'energia è enorme è perché in Italia c'è un sistema di società municipalizzate, soprattutto quelle che governano l'energia al nord, che è ancora inefficiente, dove c'è dentro la politica, c'è bisogno di più economie di scala, ci sono state molte fusioni, ma ancora non abbastanza. E poi c'è un problema di privatizzazioni, di uscita dello Stato dai controlli. Insomma, c'è un tema che credo sia in gran parte inesplorato. L'altra questione è il lavoro. Voi non parlate dell'articolo 18, che alcuni dicono non essere un problema, io personalmente lo ritengo un problema. Si può, è vero che la riforma Fornero, voi lo dite, ha reso più ha ulteriormente reso più difficile fare contratti a termine, voi chiedete di ridurre questi vincoli e su questo avete ragione, ma io credo che bisognerebbe fare di più, cioè bisognerebbe avere il coraggio di dire che la riforma Fornero è venuta fuori male, che ha subito i condizionamenti del PD e della CGIL e che il risultato è stata una riforma che invece di migliorare il mercato del lavoro ha finito per peggiorarlo. Ecco, io non vorrei che su questi aspetti che a mio modesto avviso dovrebbero essere fondamentali per Confindustria, forse anche memori di una fase politica nella quale si va verso come dire, un governo di centrosinistra che probabilmente su questi temi avrà minore attenzione, ecco, non vorrei che forse per una sorta di realpolitik Confindustria oggi si trovi nelle condizioni di dire, beh, puntiamo sulle cose che possiamo ottenere piuttosto che su quelle che oggi non possiamo ottenere. Su questo mi piacerebbe avere un chiarimento. Beh, bella tosta la domanda, Regina. Sì, sì, non so quanto ho per rispondere, però ci provo. No, ce l'abbiamo il tempo. In maniera concisa. Allora, vengo proprio all'ultima. Noi ci siamo proprio partiti, come dire, dall'evidenza che non dobbiamo essere eletti e che quindi potevamo dirla in questa fase la verità. E paradossalmente molti ci hanno detto che era troppo preciso, apriva un dibattito, diciamo, su alcune tematiche eccessive in una fase elettorale, che quindi per alcuni aspetti è anche tatticamente sbagliato, come dire, entrare così nel dettaglio. Noi invece, come dire, siamo partiti dall'idea che il momento è grave, che il momento richiede, come dire, una terapia forte, diciamo, su molti elementi anche scomodi, ce ne sono alcuni scomodi, quando abbiamo parlato di rimodulazione IVA puoi immaginare quanto scomodo sia anche nel nostro mondo, che naturalmente ha le sue difese e ha i giusti interessi da difendere, però lo abbiamo fatto nell'interesse del paese. Sul tema della riforma, però siamo partiti da un dato, guardi, io sono stato quello che ha definito questo piano in 4 forme, un piano serio, concreto, coraggioso, ma anche realistico, perché non volevamo scrivere un libro dei sogni. Naturalmente è molto semplice dire che lo Stato deve tagliarsi, naturalmente tutti noi crediamo che lo Stato e la spesa pubblica deve razionalizzarsi, ma davvero lo può fare così velocemente da dare uno scatto al Paese nel prossimo anno? Ecco, bisogna essere realisti, non di meno noi abbiamo inserito all'interno del nostro progetto, senza specificarlo nel suo, ma ci sono comunque tutta una serie di richiami che sono nel sito, perché abbiamo voluto solo dare un compendio, lo studio è molto più strutturato e organico, per cui progressivamente noi arriviamo, diciamo, con il piano a una riduzione di 6 punti percentuali dal 2013 al 2018 delle uscite correnti primarie, quindi passiamo da un 42,9 di uscite correnti dello Stato a un 36,9, quindi diciamo l'impatto è forte, è realistico, probabilmente non lo abbiamo enfatizzato perché ritenevamo enfatizzare altri punti, però indubbiamente in questo aspetto, diciamo, la riforma dello Stato, lo suo snellimento, cominciare dalla riforma del titolo quinto, dalla soppressione delle province, dal riaccorpamento dei comuni, dalle municipalizzate, diciamo, ci sono elementi forti sui quali naturalmente abbiamo, e la forza sta proprio nel fatto, come dire, che la sua riduzione è visibile, cioè arrivare a un 36,9, diciamo, sulla quota di entrate generali ci è sembrato, come dire, un obiettivo realistico e allo stesso tempo ambizioso. Sull'energia voglio dirle, perché io ho anche la delega su questo tema, oltre che su tutte le tematiche di sviluppo economico, il prezzo dell'energia è mediamente più caro del 30-40%, è figlio di tanti fattori, di tante scelte sbagliate, diciamo, di politica energetica o di non scelte fatte. Però oggi vede molto chiaro, diciamo, due elementi, c'è una componente strutturale del prezzo industriale dell'energia elettrica che è dovuta anche ad alcuni degli elementi che il giornalista della Stampa ricordava, che vengono appunto da pregresse situazioni strutturali sui quali noi stiamo agendo, non sono di breve termine, perché l'idea di avere una piattaforma unica logistica di ingresso del mercato del gas in Italia a livello europeo tendenzialmente farà ridurre il prezzo del gas, perché il prezzo del gas sul mercato libero spot sta diminuendo e di conseguenza anche la produzione termoelettrica. Però c'è una componente che oggi sono gli oneri parafiscali, tendenzialmente dovuti al finanziamento delle fonti rinnovabili, che oggi è quasi il 50% della bolletta. quindi non è una, oggi il prezzo si divide tra 50% industriale e 50% oneri fiscali e parafiscali. Noi su questi chiediamo, perché lo si può fare subito, una rimodulazione per assicurare all'industria manifatturiera almeno di ridurre il gap che c'è con l'industria paneuropea, in particolare quella tedesca e quella francese, che sono i nostri punti di riferimento. Poi le dirò di più, si pone un problema sull'energia, non vorrei entrare nei tecnicismi, che è un problema europeo, perché oggi l'Europa compete con un'America che ha trovato lo shale gas certo, e a prezzi estremamente competitivi, cioè parliamo di un rapporto di 1-5 con il resto dell'Europa, e col Medio Oriente che per altre ragioni diciamo ha delle capacità su questo tema. Noi in Europa ci dobbiamo definire una posizione che avvantaggi o che sollevi l'industria manifatturiera da un peso, perché oggi è l'industria manifatturiera europea che compete con quella americana, sì, con quella cinese e con quella che si va progressivamente aumentando nei paesi BRIC e in Medio Oriente. Naturalmente, prima di definire la questione a livello europeo è bene riportare le condizioni, cioè è bene parificare, diciamo, abbiamo una norma parificare le condizioni, dico, col resto d'Europa, le nostre condizioni, le condizioni italiane col resto d'Europa. Però volevo solo assicurare, sì, guardi, mi lascia. Se mi scusi Regina, la faccio finire, però dopo la viabilità, che sennò la mandiamo troppo in ritardo. 9 in punto. Ed eccoci di nuovo. Aurelio Regina voleva chiudere il discorso, prego. No, volevo solamente assicurare che in questo progetto l'ultima cosa alla quale abbiamo pensato è un calcolo politico. Quindi l'idea di fare un'agenda aperta a tutti, chiunque vinca, chiunque, come dire, si vuole confrontare su un progetto concreto, di idee concrete, poi che è un progetto organico, però va preso, come dire, nella sua interezza come direzione. Certamente si può discutere, come dire, un intervento o un altro, però deve essere chiaro che abbiamo bisogno di un progetto organico, shock per il paese, non di piccoli aggiustamenti. Chiarissimo. Tra l'altro, già ieri sono arrivate le risposte della politica, il classico la vostra agenda e la nostra agenda, vedremo poi nei fatti dopo le elezioni che cosa succederà. Sentiamo Fabrizio che ci chiama da Genova, buongiorno. Lei, prego. Come dicevo la sua collaboratrice, io sono un imprenditore edile e sono in controtendenza rispetto forse alle imprese, quando sto assumendo e devo assumere ancora. Il problema grosso è che, guardi, questo mese qua un dipendente ha passato di 4.000 euro di costo. Non è possibile andare avanti in questa situazione qua. Lavoro ce ne sarebbe, è molto, è solo che c'è bisogno di dare gli strumenti agli imprenditori di abbassare il costo del personale. Allora si crea ricchezza, altrimenti siamo destinati tutti a chiudere. Qui stanno chiudendo ogni giorno aziende e non è possibile andare avanti in questo modo qua. Allora, anche chi ha la fortuna o la capacità di avere lavoro, di assumere, come ho fatto io l'anno scorso, 7 persone, e devo assumere altre 3 nel giro di pochissimo tempo, se non si abbassano i costi, si può fare tanti bla bla bla, ma alla fine non si va da nessuna parte. Aurelio, è il problema grosso. Chiarissimo Fabrizio. Tra l'altro lei diceva, insomma, 4.000 euro di costo, poi quanto gli entra in busta paga? Allora, questo qua, ogni dipendente al netto, compresi gli assegni familiari, tra i 1.500 e i 1.650, ecco, capisce? Ecco. No, ma lo snodo è esattamente quello, no Regina? Mi sembra su guarda, quel punto. Talmente tanto, come dire, questo intervento, perché noi abbiamo una situazione paradossale in Italia. Abbiamo il costo del lavoro tra i più alti dei paesi dell'Ocse e abbiamo una retribuzione netta in busta tra i più bassi dei paesi dell'Ocse. Quindi si capisce, come dire, che cosa fa la differenza, no? La fanno tutta una serie di oneri sociali e di oneri fiscali e parafiscali. Ecco perché noi ci siamo concentrati subito sulla riduzione del cuneo fiscale. Tagliare dell'11% gli oneri sociali che oggi gravano sulle imprese e in particolare anche agire su tutta quella parte di armonizzazione delle aliquote contributive che riguardano gli ammortizzatori sociali. E in più dobbiamo anche adeguare l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni all'avvenuta diminuzione dei sinistri, perché che non ha un impatto banale, perché oggi progressivamente noi continuiamo a pagare delle aliquote assicurative, diciamo, che sono molto superiori rispetto a quello che è oggi l'incidenza dei sinistri sul costo del lavoro, quindi che vanno armonizzati tra le categorie. L'edilizia, per esempio, paga un costo assicurativo che è altissimo rispetto ai pur gravi, come dire, sinistri che si verificano nel settore. Quindi si deve lavorare sullo straordinario, come abbiamo detto prima, sulla detassazione. Torno anche, come dire, al tema che forse al quale non ho risposto. Noi siamo stati più netti di noi, credo che in Italia non ci sia stato nessuno nel dire che la riforma Fornero è una riforma insufficiente, che non è adeguata, diciamo, al momento storico, non è adeguato al modello europeo e che va riaffrontata. Come dire, in questo anno mi pare che siamo stati abbastanza isolati nel dirlo, con qualche altra forza sindacale. Oggi lo dice anche il presidente Monti, che quella riforma l'ha approvata, che va cambiata in alcune sue componenti. Ecco, quindi mi auguro, come dire, visto che è una riforma che ha scontentato molti, che sia una delle priorità da mettere nell'agenda di qualunque governo, come dire, sarà chiamato a guidare il paese. Abbiamo 3 minuti. Un'ultima domanda in 30 secondi da Alessandro Barbero e un'ultima risposta in 1 minuto al massimo da Regina. Alessandro. L'altra questione che mi interessava capire da Regina, si capisce che voi ponete il problema dei crediti della pubblica amministrazione. L'altro giorno io, ristudiandomi un libro che è appena uscito interessante sul federalismo, constatavo che circa 500 milioni dei soldi che lo Stato deve alla pubblica amministrazione sono stati sottratti da una manina notturna per essere destinati a un fondo salva comuni che è stato introdotto. Dovevano essere abolite le province, abbiamo finito per aiutare i comuni ad abbattere i loro debiti. Ebbene, la domanda che poneva Regina era questa: i piani Passera sono stati molto, si capisce che Passera ci ha messo molto impegno su questi decreti, però ancora la strada verso la soluzione dei pagamenti degli arretrati della pubblica amministrazione e dei privati è ancora indietro. Volevo capire come Confindustria pensa che si possa uscire da questa impasse e se crede che i decreti Passera abbiano solo bisogno di tempo per essere attuati. Regina, abbiamo veramente 1 minuto, mi raccomando. Io guardi, credo che la buona volontà del ministro Passera, come dire, si sia scontrato una resistenza da parte del modello di pensiero e culturale del Ministero dell'Economia nel suo complesso. Ho una non volontà di far emergere in chiaro, diciamo, questi che sono, come dicevo prima, dei debiti occulti. Io credo che va fatta chiarezza, questi sono dei debiti dello Stato, vanno portati in chiaro perché ci sono e vanno pagati subito. Va chiarito all'Europa qual è la situazione in termini, come dire, dei rating che ci sono su questo aspetto e poi agire conseguentemente sul debito pubblico con politiche di dismissioni, ma va fatto subito perché noi abbiamo bisogno di dare liquidità a un sistema che si sta strozzando perché le banche oggi hanno difficoltà a erogare credito per tutta una serie di ragioni, in alcuni casi o non lo fanno, quindi quel meccanismo di liquidità immediata di 48 miliardi almeno è una frazione di quelli dovuti, oggi darebbe una certa vitalità al sistema e aprirebbe un mercato che oggi è soffocato dal credit crunch. Chiarissimo, grazie ad Aurelio Regina, vicepresidente per lo sviluppo economico di Confindustria, ad Alessandro Barbera, giornalista della Stampa. Chiedo scusa a tutti gli ascoltatori che non siamo riusciti a far intervenire oggi, grazie a Rosa Eleonore, Sabrina al centralino, Carmelo Lauricella in regia, Franco Piantanide in assistenza, Alessandro Marco Tulli in redazione. Grazie a tutti voi per l'ascolto, ci risentiamo domani, parliamo di, come promesso, di Monte dei Paschi. A domani. Radio 24. La passione si sente.